Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. Per tutto un inverno Pietro non rivide Poggio a Meli, udendone solo parlare tra il babbo e gli avventori. Viti nuove, vivai di frutti, sementi più abbondanti e il vino della prima vendemmia. Un vino però chiaro chiaro, che sapeva di solfo e bruciava lo stomaco. Qualche volta alla trattoria capitava Ghisola, zitta e accanto la zia Rebecca, ed egli la guardava senza andarle vicino. Ma gli faceva meno piacere e sembrava che non si fossero parlati mai. Dopo alcune febbriciattole, verso il giugno, tornò con la mamma in campagna. Siccome la casetta stava chiusa parecchi mesi dell'anno, ci trovavano sempre un odore di calcina e di topi, e le serrature ad adoprarle ci voleva forza. Chiamavano Giacco la prima volta per non farsi male alle mani, e Masa era incaricata di levare la polvere e le ragnatele che avevano empito le stanze. Anche Ghisola aiutava, ma non doveva toccare quel che si poteva rompere. Pietro il primo giorno ebbe un'agitazione che gli toglieva la coscienza. Gli dolevano le glandole ancora gonfie dietro gli orecchi. Sbarbava con una stratta tutte le piante che gli capitavano sotto mano. Strappava i tralci alle viti o con un palo batteva un albero finché si fosse sbucciato. Staccava le zampe e le ali ai grilli e poi li infilzava con uno spillo. Stava attento quando una nuvola era sopra di lui e quando era trascorsa ne aspettava un'altra quasi per farsi vedere. Alla fine piovve, senza tuonare, con uno sgocciolio che non finiva più sotto alle docce. Poi, diradatesi le nuvole, alcuni sprazzi di luce si indugiarono sopra le colline di là dalla pioggia, che le velava di tanti fili sottilissimi che il vento avrebbe potuto romperli tutti. L'arcobaleno si aperse, come fosse stato lì già pronto. Anna, dopo cena, chiamò in casa Masa e le altre donne degli assalariati, che entrarono inciampando insieme ad ogni passo. «Mettetevi a sedere», risposero come sempre. «Ma, signora padrona, incomoderemo troppo. Vi dico che vi mettiate a sedere». Anna ci teneva a fare la signora e ad essere rispettata, ma voleva bene davvero a quelle donne. Ghisola se ne stette seria e attenta dietro a tutte. E Pietro, che doveva studiare, dopo aver guardato la divisa dei suoi capelli, uniti come il refe avvoltolato al rocchetto, non fece più caso a lei se non quando la mamma le comandò di prendere un gomitolo nell'altra stanza. Ella obbedì rapidamente, come una grande marionetta. Poi si rincantucciò, con gli occhi intenti alla trina della padrona, con i piedi sulla stecca della sedia. Anna, accorgendosene, si trasse alquanto indietro sul canapè, alzò le mani e disse: «Ecco, l'uncinetto si tiene così. Poi gli si fa pigliare il filo, si avvolge da questa parte e si ripiglia. Non c'è da sbagliare». Orsola, il cui naso era rosso di un'ectasia venosa, rispose senza aver capito niente: «Com'è brava!» Masa si volse alla nipote: «Quanto saresti contenta se tu potessi imparare!» Allora Orsola, grattandosi i capelli con un ferro della sua calza, disse: «Ghisola è giovane, le dita le si prestano bene, ma noi non possiamo piegarle e non ci vediamo abbastanza», aggiunse quella che aveva la vista più debole, Adele. «Ma che sappiamo fare noi? Un po' d'acqua cotta per i nostri uomini, è male anche quella». Tutte risero e Masa esclamò: «Ma guardate che dita delicate alla padrona! Sembra perfino impossibile». Anna lasciò la trina e, arrossendo, mise una mano sopra la tavola, alla luce, facendola vedere da ambedue le parti. Era piccola e grassoccia, con le unghie corte e gonfie. Pietro ascoltava, ma gli pareva che le persone intorno a lui agissero come nei sogni. E la mamma, rivolgendosi a lui, doveva ripetere due o tre volte la stessa cosa: Ma perché sei così distratto? Eppure tu capisci quel che si dice. Egli, con un'apprensione strana, temeva di rispondere. E dalla sedia andò sul canapè, incapace di sottrarsi a una specie di spavento a cui si era abituato, subendo quel fascino di allontanamento che talvolta gli dava un terribile benessere, finché il sonno non gli fece ciondolare la testa sulle ginocchia. Ghisola, ad un cenno della padrona, gli si avvicinò e gli bucò appena con un ferro della calza una mano perché si smuovesse. Pietro finse prima di non sentirla, ancora immerso in quel suo abisso schiacciato. Poi, senza alzare gli occhi, la maltrattò. Ora, Ghisola apparteneva a quella brusca realtà meno forte delle sue astrazioni. Sentì tale differenza con pena acre. «Mi hai fatto male!» Egli era già meno tranquillo, con un viso bianco che pareva consunto. E perché non si mettesse a piangere, Anna rimandò via la contadina prima del solito. Ghisola, quasi offesa e con timore, se l'era svignata subito. La pioggia, ricominciata dopo il tramonto, faceva un crepitio sommesso tra le lucciole che non si diradavano. Qualcuna deriva ad uno stelo di grano e non si muoveva più. Si vedeva la sua luce immobile, sempre accesa, sotto i colpi delle gocciole. Pietro si fece spogliare, con gli occhi che non stavano aperti, pieni di sogni, e la mamma, quando fu a letto, gli disse guardandolo: «Sono 3 sere che non dici nemmeno un'Ave Maria, segnati». Avrebbe obbedito se fosse stato più desto. Mosse il braccio, ma non arrivò a toccarsi la fronte, sentendo il segno della croce addosso, con un senso delizioso di quel che aveva detto a Ghisola. S'addormentò, vedendo la mamma che, simile a un'ombra, girava intorno al letto per benedirlo. «Dammi la buonanotte, almeno». Ma egli già dormiva davvero quando Anna se ne andò, riparando il lume con tutta la persona, dopo avergli messo sotto il piumino i calzinotti e le mutande. Si destò a mezzanotte. Udì un usignolo, forse tra le querci del potere, accanto all'aia. Le sue note gli parvero un discorso, a cui rispondeva un usignola, da lontano. Allora li ascoltò ambedue a lungo, e non avrebbe voluto, e pensò che Ghisola fosse fuori per prenderli, ma si chiese perché le cose, le persone intorno a lui non gli potessero sembrare altro che un incubo oscillante e pesante. Poi, nei sogni, sentiva la sua cattiveria e credeva di imprecare contro quel canto. La farina. Masa sapeva bene quel che è la farina e quanto le costasse. La farina che le si attaccava alle dita, chiusa nella madia, con un rispetto quasi fanatico. Mangiava le fette di pane come un ragazzo di montagna si mette in bocca per la prima volta un pezzo di dolce ed ha paura di finirlo troppo presto, senza toccarlo con le labbra, tagliandolo a morsi, con un movimento ammodato di tutta la bocca, lo inghiottiva con gli occhi fermi su quello che stringeva tra le dita, con una gamba sopra l'altra. La farina era lei stessa e tutta la sua famiglia. E Giacco diceva: «Non siamo fatti di pane anche noi». Quando gli ficcava il braccio nudo dentro un sacco di grano per assicurarsi che non fosse riscaldato, pareva che tutti i chicchi volessero andarglici attorno. Masa gli chiedeva: «Ci sono entrati i farfallini?» «Sarebbe meglio che si rompessero le costole a te!» Masa arrossiva, ma era contenta. Agostino, figliolo d'un cavallaio che aveva 2 poderi a confine con Poggio a Meli, non voleva che Pietro parlasse troppo a Ghisola, per quell'amor proprio che nell'adolescenza somiglia alla gelosia. E capì che doveva odiare il rispetto ingenuo di Pietro e compatirlo come una debolezza. Ghisola, infatti, dava al suo padroncino un senso di disagio e di impaccio. Ma egli voleva essere forte e cercava di convincersi che preferiva l'amicizia di Agostino. E con lui diventava remissivo ed obbediente, procurando di indovinare le cose che pensava e non diceva apposta. Talvolta gli raccattava una pietra come egli comandava soltanto guardandola, per tirarla, appena visto un uccello sopra un ramo accanto alla strada. E come il vento gonfiava la camicia d'Agostino, tutta sbottonata, perché non aveva i polsi uguali a lui, le ciglia, gli orecchi, la camicia? E perché quando si provava a fare come lui con la stessa aria di noncuranza, si trovava perso d'animo, senza fiato, con la paura di provocare la sua collera che lo faceva tremare? Perché non poteva sostenere il suo sguardo crucciato, impenetrabile e lucido, quando si provava a non rispondere alle sue domande e quando non aveva indovinato? Quello sguardo lo impauriva. Così come quando, senza essercene avvisti prima, ci si trova proprio ai piedi di una fonte piena d'acqua. Agostino aveva il naso piccolo e corto di bambino, tutto lentigginoso, ma il suo collo era come quello di una bella donna, le mani fatte bene. I suoi colloqui con Ghisola, che consistevano in parole senza senso, convenzionali, che capivano loro due soltanto, suscitavano in Pietro sentimenti inaspettati, ai quali da solo non avrebbe mai sognato. E il diletto d'ascoltarli era tanto. Anche gli pareva di imparare chissà che. Ghisola aveva un sorriso piacevole, dicendo certe cose che a lei sola potevano venire in mente, e Pietro si struggeva dalla voglia di impararle come i suoi stornelli, ma non riusciva nemmeno a cantare, e ne aveva vergogna. Talvolta, volendo che ridesse, le faceva qualche dispetto apposta. Sotto il largo cappello di paglia che le calava sempre sopra un orecchio, guarnito con un nastro di raso liso e con due rosette buttate via da Anna, il volto di Ghisola era tranquillamente insignificante e sciatto. Sembrava, con la sottana rimandata male, troppo semplice e quasi stupida. Vi sono esseri che non chiedono nulla a nessuno e rinunciano a tutto, e non essendo rispettati come gli altri, pare che di loro se ne possa fare quel che si vuole. Perciò quel che riguarda gli altri lo trovano antipatico. Se qualcuno li ama, non vogliono cambiarsi, chiedendo che cosa questo bene esiga. E allora lo evitano. Quando Masa batteva le nocche sulla fronte di Ghisola, dicendole «Che ci hai qui?», ella rispondeva quasi con esasperazione «Che ne sapete voi? Che ve ne importa?». Talvolta credeva con piacere e con stizza che il suo viso offendesse. Quando gli altri parlavano si metteva silenziosa, credendoli diffidenti. Non le interessava niente. Obbediva a Masa e ai padroni, perché da se stessa non avrebbe pensato nemmeno alla calza, e sentiva malvolentieri che tutto ciò che esiste non era soltanto in lei. Talvolta pareva piuttosto che parlasse con lo scalone di casa, quando secondo il suo solito ci stava seduta, e non si sarebbe arrischiata ad avere qualche idea, perché ne aveva troppe che non le si addicevano, come non si arrischiava quando era andata alla trattoria a chiedere le ghiottonerie che vedeva, e invece le avvampavano il viso e la stordivano quanto le stanze calde a cui non era abituata. Ma c'era in lei il presentimento e il senso di una vita che le montava la testa, come la ricchezza e il lusso degli altri. Una volta Pietro s'era seduto ad attendere il padre sullo scalone di Giacco, dove stava sempre Ghisola, perché senza avvedersene faceva come lei. Masa finiva di spazzare con una granata infilata un vecchio manico d'ombrello, alzando una polvere così fitta che se ne sentiva il sapore in bocca. Ella si raccomandò «Si alzi». Ma egli non si mosse nemmeno, e la vecchia si fermò. Tra quegli stracci d'ogni dove, le matassine di capelli, le scatolette sfondate, c'era una bambola fatta ad un pezzo di stoffa bianca intorno a un mestolo. Pietro ebbe voglia di raccattarla e s'alzò. Ma la vecchia, preso tempo, gettò la spazzatura fuori dell'uscio. E allora quella bambola, rimasta supina, parve a Pietro che fosse viva, e non la toccò. Ghisola, sopraggiunta dal campo, vista la traspazzatura, stette zitta, perché la nonna da tanto tempo le aveva detto di buttarla via, ma fece viso da piangere. Masa le gridò: «Pensi sempre a queste cose!» Pietro, per burlarla, affondò la bambola accalcagnata nella melma, e poi ci si mise con furore, con il cuore palpitante, impaurito di vederla uscir fuori, pallido. Ghisola, guardandolo dall'uscio, borbottò: «Stupido! Pietro sentì rimorso e tentò tutti i mezzi di riconciliarsi. Ma lei gli volse le spalle, mangiando un pezzo di pane trovato nella madia. Allora egli aperse un temperino che aveva in tasca e le ferì una coscia. La giovinetta impallidita si sforzò di contenersi. Egli, credendo di non averle fatto male con il temperino in mano, offeso e indispettito, fece l'atto di slanciarsi un'altra volta. Ma ella allora gli tirò un calcio e corse in camera buttando via il pane. La vecchia, al rumore delle sedie urtate, smise di spazzare e tornò in casa, andando a trovare Ghisola, che si sentiva frignare con quel frigno tutto unito e senza stacchi, che smette subito. Pietro, solo in cucina, ridendo sommessamente di spavento, s'avvicinò pian piano per vedere. Ma in quel mentre Masa uscì e gridò con collera. «Perché l'hai fatto far sangue? Non deve essere così cattivo, eh? Non voglio, lo dirò al padrone!» «Io non c'ho colpa!» Ma Domenico e Anna lo picchiarono sulle mani in presenza di Masa e di Ghisola e gli fecero chiedere perdono. Allora Pietro, quantunque il castigo gli avesse fatto quasi piacere, si sentì lungo tempo mortificato, quasi che tutti i suoi scherzi lo portassero a qualche terrore. Gliene venne una superstizione tale che non giocò più, credendo anche che una volta o l'altra gli potesse succedere molto male. E ne aveva avuto la prova 2 anni prima. Scaraventando un sasso, aveva ferito un altro ragazzo che si trovava, senza che egli lo sapesse, dietro una siepe. Perciò i suoi discorsi con Ghisola presero un tono di gravità, quasi avessero dovuto nascondere un significato nuovo. Dopo qualche mese, trovatala per caso sola nel campo, prima s'allontanò e poi tornò indietro, arrischiandosi a chiederle: «Ti fece male parecchio?» I suoi piedi, che affondavano nella terra lavorata, gli davano un senso di sgomento. Ma ella lo guardò sorridendo. «Quando? Quando ti ficcai senza volere il temperino nella carne?» Già quel sorriso, contrariandolo, gli aveva fatto perdere il filo. «Ci pensa sempre?» Egli si meravigliò di trovare in lei un sentimento che non somigliava nemmeno a quello supposto e le chiese: «Te l'eri scordata, forse?» «Subito dopo?» Parve a lui che volesse dire: «Queste sono cose cattive e non ci si pensa.» «Ma devi aver sofferto davvero? Se tu vuoi fare ora lo stesso a me, io...» Egli le prese la mano perché tenesse il temperino, ma ella si divincolò subito e fece una smorfia di incredulità. «Ho mai detto bugie io? Non sono Agostino.» Ma gli parve così scontenta di quell'insistenza che egli se ne andò, battendo le mani sulle spighe della vena alta, tutto confuso e deciso di non comparirle più dinanzi. E provò uno spiacere disgustoso a stare con lei. «Forse», pensava egli, «ha ricusato per la nonna e per la zia.» Ghisola, invece, si convinse che non parlasse sinceramente e astiò il figlio del padrone con quell'astio istintivo e cattivo che hanno quelli costretti a ubbidire. Del resto, credette volentieri che non fosse sincero. Era una ragione di più per volergli male. Quando lo vedeva da lontano ed egli per timore non la guardava nemmeno, si metteva a cantare. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.